1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Vi siete destati, cari debosciati italiani, alle 7:19 minuti. Forza, forza! Questo è 24 mattino. E siamo qui adesso a leggere i giornali per voi e con voi. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 il ministro degli esteri Federica Mogherini a parlare dell'attualità internazionale, la Libia in primo piano, ma anche con quello che ciò che comporta sulla questione degli sbarchi e dei migranti. E poi avremo ospiti per parlare di questi ultimi scampi di campagna elettorale, che è due esponenti, uno del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, e poi Simona Bonafede del Partito Democratico, candidata all'Europarlamento, dalle 8:30. Allora, siamo pronti? Sì, andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 22 maggio, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre così: il voto europeo preoccupa i mercati, l'attenzione sullo spread che si infiamma fino a quota 200, poi era chiuso a quota 183. Invece per il Corriere della Sera l'apertura è sull'omicidio Biagi, perché come avete sentito sono state trovate delle carte che proverebbero il fatto che l'allora ministro dell'interno Scajola fosse informato della necessità di dare una scorta a Marco Biagi. Biagi, omicidio per omissione, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Scajola ignorò le richieste di Sacconi e Confindustria. Anche per il secolo XIX l'appunto su Biagi che incastra Scajola, questo è il titolo. Mentre le europee e dunque le ultime 48 ore di campagna elettorale sono l'apertura per La Stampa. Via al voto, allarme populismo. Per Repubblica invece ecco il piano Renzi per il semestre europeo. Tasse, oggi via Befera. Renzi fa un'intervista al Fatto Quotidiano ed è la notizia di prima pagina. Riforme, non faccio miracoli, non è il mio Parlamento, così Renzi. Mentre Libero, il PD boicotta gli 80 euro di Renzi. Per il Messaggero, effetto voto, pericolo spread. Mentre il Giornale, la minaccia di Grillo, pronto il tribunale del popolo e Berlusconi l'attacca, in pericolo la democrazia. Per l'Unità invece la sinistra cambierà l'Europa, questo è il titolo di prima pagina. Come al solito voglio partire con delle notizie diverso, non so, ma non quelle di prima pagina che vedremo poi nella campagna elettorale, ma per esempio questa: è stato pubblicato, lo abbiamo sentito, l'elenco degli stipendi, o meglio delle entrate, dei redditi dei ministri. Guidi dichiara il doppio di Renzi, Boschi e Lorenzin fanalini di coda. È la classica classifica, la racconta Antonella Baccaro a pagina 13 del Corriere della Sera. Ci sono ovviamente ogni anno queste classifiche. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi è il componente del governo che dichiara di più nel 2013, vale a dire 298.703 euro. Volete sapere quanto dichiara Renzi? 145.272 euro. Reddito annuo percepito nel 2012, dunque dichiarato nel 2013, tra l'altro è meno rispetto a quando era sindaco, quindi Renzi al governo guadagna di meno. Chi guadagna di meno invece di tutti tra i ministri è il ministro Maria Elena Boschi, 76.259 euro, considerato fanalino di coda insieme anche a Beatrice Lorenzin. Vabbè, insomma, al primo posto della classifica è il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. E poi Maurizio Lupi al secondo posto, 282.499 euro. Al terzo posto il ministro dell'economia Padoan, 216.000. Poi Franceschini, 200.861 euro. Mentre Renzi arriva dopo, appunto, 145.272 euro. Il titolo anche della Stampa è: La Boschi, il ministro più povero. questo è il titolo dell'articolo di Alessandro Barbera a pagina 9. Vabbè, ma continuano le polemiche a Pomezia e non solo, anche sui giornali nazionali, per la vicenda che ha visto coinvolto la giunta guidata dal Movimento 5 Stelle, il sindaco Fabio Fucci, 34 anni, che ha deciso insieme ai genitori, lui si difende così, dall'anno prossimo di dare i menù divisi alle elementari, alle materne, ai bambini, per le famiglie che pagano 4,44 euro anche il dolce, per quelle che pagano solo 4 euro niente dolce. Oggi Monica Guerzoni lo intervista: dolce a chi paga di più, normale, gli altri bimbi possono portarselo. A pagina 5 del Corriere della Sera, eccolo qui, scommettiamo tra un anno il Corriere scriverà quante cose buone ha fatto questo sindaco tiranno. Così si difende Fabio Fucci, che dice la scelta nasce da un percorso di condivisione con le famiglie di Pomezia. Parla di strumentalizzazioni elettorali, di giochi sporchi e scorretti. Perché si accorgono ora solo di un provvedimento licenziato a fine del 2013? Comunque, dire che neghiamo il dolce ai bambini poveri è una distorsione della realtà. Ora spiego la bontà del provvedimento. E il Corriere dice: la spieghi, se ci riesce. Ecco qua. Le famiglie lamentavano il costo alto del servizio e dopo un serrato confronto sono arrivate le proposte dei genitori, tra cui questa del doppio pasto. Ma non la ritiene odiosa? No. Alcuni ci chiedevano un doppio menù differenziato nelle quantità e quello sì sarebbe stato discriminatorio. Noi abbiamo mitigato l'effetto. Solo la merenda sarà diversa, perché ad alcuni la fornirà la ditta e altri la porteranno da casa, cosa che molti fanno già adesso. A mensa, nel massimo momento formativo di natura alimentare, mangeranno tutti le stesse cose. Fucci, che tra l'altro nell'articolo è dato di 44 anni, nella foto è dato di 34 anni, sembra più di 34, almeno a giudicare dal viso, è sposato con Veronica, ha un figlio di un anno. Quale menù sceglierò per Lorenzo? Ci porremo con mia moglie il problema quando sarà il momento. Magari gli metterò nello zaino un frutto invece di fargli mangiare una merendina confezionata. Comunque c'è da dire che il sindaco di Pomezia si difende così. Le polemiche sono su tutti i giornali. Scuola al dolce solo a chi paga di più, bufera sul doppio menù in mensa. Questo è diventato il titolo più gettonato. C'è da dire che il Secolo XIX fa un commento in prima pagina, un commento che trovate a destra nella prima pagina, un commento di Roberto Fedi. Scuola tutti matti per il dolce da 40 centesimi. E Fedi scrive: se uno va al bar la mattina e chiede una brioche per 40 centesimi, il barista si mette a ridere. Se è molto presto, magari quello si è svegliato male, gli dice anche 4. Se a un ragazzo di quelli che lavano i vetri o vendono i fazzoletti di carta per strada date 40 centesimi, ve li tira dietro. Insomma, con 40 centesimi non si fa nulla, neanche l'elemosina. E invece il sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, ha pensato di chiedere ai genitori dei bambini delle elementari questa ingente somma per avere insieme al resto della mensa anche il dolce. Apriti cielo, ignobile, umiliante, immorale, gli aggettivi che dal presidente della regione Zingaretti a Fassino, presidente dell'ANCI, qui lo ha detto, aggiungo io, ai nostri microfoni ieri. Il sindaco tassatore si è sentito piovere addosso. Secondo noi sono tutti impazziti, scrive il Secolo XIX, e conclude questo editoriale: tutti a sbranarsi per 40 centesimi. Ma vergognatevi piuttosto. Vabbè, questa è la vicenda. Intanto un'altra vicenda che mi ha molto colpito è questa notizia che riguarda quello che viene definito già il Madoff italiano. Ricordate Bernard Madoff, colui che con un sistema finanziario porta al zigogolato ha truffato milioni di euro a molte persone? Viene già definito così il Madoff italiano, un professore della Bocconi, ex docente della Bocconi, che è stato arrestato ieri. Si tratta di Alberto Michalizzi, ex ricercatore della Bocconi, che spendendo questo brand a piene mani ha fatto fesso mezzo mondo in una vicenda davvero che ha dell'incredibile. ne parlano tutti i giornali. Leggo per esempio da Paolo Colonnello, pagina 19 della Stampa: Mica Lizzi, il Medof italiano è la mega truffa da 700 milioni di euro. Per dire quanto contano le COP nel mondo, scrive Colonnello, l'ultima truffa ai danni di banche russe, ma anche della JP Morgan o della società di Atlanta Care Capital, il Madoff della Bocconi l'ha messa a segno dando impegno, una fideiussione in realtà falsa, di 20 milioni di euro apparentemente emessa da BNL filiale di Reggio Emilia in favore di COP7, cooperativa di Castelnuovo Sotto. I russi, notoriamente poco inclini allo scherzo, pare siano riusciti a prendersi il mal tolto. Gli altri si dovranno costituire parte civile, i cinesi, nelle cui banche sono scomparsi 40 milioni di dollari, non si sa come si regoleranno. Difficile tradurre in mandarino le carte di un'inchiesta che spazia dalle spiagge cipriote alle pianure emiliane, dalla mole antonelliana al Duomo, approdando infine nel disvelamento della truffa tra le lamiere arrugginite di una scalcagnata roulotte parcheggiata nel Nevada, la vera sede del centro affari del professor Alberto Mica Lizzi. Una personalità senza scrupoli, incurante delle regole, incline a delinquere, scrivono così i giudici che lo hanno arrestato ieri con altre 8 persone. Ma pochi anni fa il professor Mica Lizzi, faccia da bravo ragazzo, autorevolezza di docente di finanza aziendale alla Bocconi, era considerato un enfant prodige, stella nascente dell'economia italiana e internazionale. Aveva messo a punto modelli finanziari che l'avevano reso famoso pochi anni prima della grande crisi. Ma certe teorie non sempre funzionano. E insomma, dovrebbe, secondo l'accusa, ha raggirato, dopo aver messo come sede della società una roulotte nel deserto del Nevada, così si è scoperto andando a studiare tutti i carteggi, avrebbe truffato chi dice tra i 500, chi fino a 700 milioni di euro. Anche il Corriere dedica una pagina alla sua vicenda: banche svizzere e giapponesi truffate dall'ex professore Bocconi. E anche il giornale, il Madoff bocconiano, che truffava perfino i grandi della finanza, avrebbe truffato centinaia di milioni di dollari alla banca giapponese Nomura, 100 milioni, 252 milioni a Natixis, 150 milioni a Bear Stearns, la fiduciaria Orefices SPA 25 milioni, 25 milioni a UbiBanca, 5 milioni a Silgest SPA. Insomma, ma come ha fatto? Come hanno fatto a cascarci tutti? C'aveva la sede della roulotte del Nevada. Cose che capitano. Intanto andiamo in pubblicità. Alessandro Mila, sempre breve e circonciso. Ma certo, ovviamente, circoncisissimo. Caro ascoltatore, un grande abbraccio, un grande abbraccio. Allora, la campagna elettorale, come affrontare questo dramma attraverso la lettura dei giornali? E lo so, leggete le varie pagine, non ci sono grandi spunti. Io vi darò gli spunti, quelli più particolari, per il resto è tutto il solito profluvio di insulti, chi dice di qua, chi dice di là. Berlusconi ieri che ribadisce Beppe Grillo assassino, Beppe Grillo che dice faremo i processi online, niente di violento, ma insomma a giornalisti, imprenditori, i primi saranno proprio i giornalisti. C'è la polemica anche di Casaleggio con il Fatto Quotidiano e con Travaglio, nel senso che c'è stata questa lunga intervista, ieri l'ho letta in rassegna stampa, e Casaleggio a un certo punto dice perché no fare il ministro. C'è anche il video peraltro di questa chiacchierata tra Travaglio e Casaleggio, e però che succede? Che Casaleggio ha sentito il dovere di smentire. Io e Beppe ministri, polemica su Casaleggio, il guru frena, decide il web. E dunque la domanda: lei il ministro lo farebbe? Casaleggio risponde: dipende dal movimento, ma perché no, dovendo scegliere opterei per l'innovazione. E poi Grillo, bisogna chiedere a lui, lo vedrei bene ministro. Ma alla fine Casaleggio fa una nota a dire: né il sottoscritto né Grillo si candidano come ministri, come riportato nei titoli di alcuni giornali. Le persone iscritte al Movimento 5 Stelle decideranno la squadra di governo attraverso la rete. E poi c'è Berlusconi che dice: se anche perdiamo non le riforme, cioè se anche diciamo non comunque vado al voto, queste riforme non sono in pericolo, dice anche, seduto nello salotto di Porta a Porta da Bruno Vespa: se c'è di mezzo l'interesse del paese e degli italiani, siamo disposti a fare l'accordo con tutti, anche con il diavolo, perché si parla di già di governo di larghe intese. Questo perché, insomma, si va a votare per le elezioni europee. Ora, se siete stupiti del fatto che questo possa avere riflessi sul governo italiano, possiamo essere d'accordo. Ma questo è, c'è da dire che lo spunto forse nuovo dai giornali, c'è che Matteo Renzi viene intervistato dal Fatto Quotidiano, sono due pagine, pagina 2 e 3, dice tante cose, la prima delle quali sulle riforme, lo accusano di essere lento, e lui dice: devo assolutamente dare dei dati e delle date, o do delle date o il Parlamento, che non è il mio Parlamento, non me lo porto dietro, o lo metto in forcing o non tocco palla. Così inizia l'intervista a cura di Wanda Marra. Matteo Renzi, dopo oltre un'ora di intervista, arriva all'ammissione su molte delle cose che avrebbe voluto fare, costretto al compromesso. D'altronde dice: non ho la bacchetta magica e non è il mio Parlamento. Una lunga chiacchierata, ripeto, due pagine, alcune cose interessanti, per esempio, sono queste. Siccome è stato accusato proprio dal Fatto Quotidiano di essere stato assunto dall'azienda di famiglia poco tempo prima di diventare allora presidente della provincia di Firenze, e dunque aver la possibilità di maturare la carriera pensionistica e il TFR a spese dello Stato, Renzi risponde: non volevo dirlo, invece lo dico. Ho deciso di fare una cosa che mi costa. Ero in aspettativa nella mia azienda di famiglia, ma Marco Lillo del Fatto mi ha chiesto di dimettermi, e io l'ho fatto un mese fa. Anche se è stato un atto di attenzione, non c'era nulla di giudiziario. È un'azienda in cui ho sempre lavorato, ho fatto l'università da studente lavoratore, consegnavo i volantini, distribuivo gli elenchi telefonici. Ed ebbe anche una lite violenta con Lamberto Dini, che mi disse: ma questo lo consideri lavorare? E io gli risposi: certo. E poi Renzi parla dei vitalizi: sono convinto che è una cosa che va fatta, cioè abolire il vitalizio per i parlamentari, siamo sulla strada per farla, il regime vitalizio dal 2012 è cambiato, anche se è vero non abbastanza. Sulla domanda perché nelle liste europee non avete fatto le primarie, risponde: ci sono le preferenze, non servono le primarie, facciano le primarie per i 5 Stelle. Qualcuno di voi conosce un candidato di Grillo alle europee? E i giornalisti del Fatto che lo intervistano dicono: no, ecco, e parlate di primarie a me? Così Matteo Renzi. Interessante anche da segnalare un'intervista a Romano Prodi. Romano Prodi parla alla Stampa, Francesco Semprini, pagina 3. E dice: l'Italia, come gli altri paesi molto indebitati, soffre visto che il PIL non cresce, e sul ruolo che avrà Renzi, dice, può avere la funzione di condensatore di alleanze che possono cambiare la politica europea. A un certo punto arriva la domanda sul presunto complotto ai danni di Berlusconi fatta a Prodi, ed è questa: parliamo della stessa Europa che chiese all'ex segretario, all'ex ministro Timothy Geithner di far cadere Berlusconi? Risponde Prodi: potevano essere ministri, ma potrebbe essere anche una balla. Mi viene in mente un proverbio reggiano che dice: se è vero è una gran bugia. Ma che vantaggio avrebbe avuto l'ex segretario americano a inventare? Ognuno può dare colore alla sua vita. Così risponde Romano Prodi sulle accuse di complotto per far cadere Berlusconi. Ma complottari, complottardi, complottisti e Mauro Meazzi, eccoli qua. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Devo dire che a questo punto stai un pochino esagerando, forse per diventare un'intera categoria. Rientro in me, rientro ancorché in me. Ancorché negativa, come mi pare di cogliere dall'ambiente in cui mi metti, bah, insomma, vabbè. Comunque, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, sai che c'è molto da fare nei comuni, stanno deliberando. Tu stai deliberando, lì state deliberando. No, però allora, ieri Fassino, hai sentito che ho detto questa data è su tutte le prime pagine dei giornali, non citata Radio 24 no, Mattino, vabbè, ma noi ci accontentiamo, no, infatti, così. Anche perché, come ricorda appunto puntualmente su 24 ore di oggi, citando peraltro la trasmissione, certo, ci mancherebbe altro, citando peraltro la trasmissione, qui c'è un po' di confusione. Pensavamo che oggi ci sarebbe stato un decreto legge, ma no, nel senso, si continua a non capire bene come si va, quale sarà il termine, se sarà settembre, se sarà ottobre. Siamo appesi un po' al comunicato e adesso possiamo dire che nelle fonti del diritto è entrata anche 24 mattino a questo punto. Certo, sì, fa giurisprudenza, dopo, come si dopo dice. Il decreto legge, dice, possiamo collocarti più o meno all'altezza di un decreto ministeriale, che dici, ti accontenti? Sì, un decreto ministeriale mi sta bene, molto no. Più di un disegno di legge, di un qualunque disegno di legge. Vabbè, di legge, poi sai, finché resti in discussione. appunto. No, adesso facciamo un aggiornamentino al codice civile, stai tranquillo. La TARI è appunto perché bisogna deliberare, quindi non c'è tempo da perdere. Bisogna deliberare entro domani e poi attenzione perché bisogna verificare se la delibera medesima finisce sul portale dell'economia. Quindi c'è questo rush finale, ma spieghiamo tutto nelle pagine iniziali, questa volta del Sole 24 Ore. Mentre in norme e tributi annunciamo, caro Alessandro, che ci potrebbe essere, usiamo il condizionale, un decreto legge per il rientro dei capitali. Sai che ce n'era già stato uno, sì, è stato lasciato decadere, e non è stato ribadito neanche da Radio 24, a questo punto possiamo dire. Quindi, essendoci questa mancanza, adesso si penserebbe non al disegno di legge, ma proprio al decreto legge. Tutti i particolari non in cronaca, ma in norme e tributi, naturalmente. Vediamo come succede. Ah, poi, importante, c'è un click day il 29 maggio per i fondi sicurezza messi a disposizione dall'email. Non ti preoccupare se non mi segui, chi deve capire, ti assicuro che ha capito questa comunicazione un po' radiofisco. Certo. Ecco, ti invito anche ad essere attento al lancio, che si presume insomma imminente, di una app gratuita per informare gli automobilisti sui prezzi della benzina, un'iniziativa che viene presa dai ministeri. Sì. Lo raccontiamo nelle pagine di Impresa e Territori oggi sul Sole 24 Ore, pagina 14 si annuncia questa app gratuita per essere informati sui prezzi della benzina. Così saprete questo tutti. per dire che allora se parliamo di benzina, quindi di auto in movimento, questo è il momento del traffico. Alessandro Milan, il debosciato dell'informazione. Ma è ovvio, questo è un contrappasso abbastanza semplice, grazie. Ma lei debosciatissimo, anzi debosciaterrimo. Se io debosciato, lei debosciaterrimo. Caro amico che ci ha mandato questa sigletta. Allora, la cronaca impone di tornare sulla vicenda Scajola, perché come detto per molti è l'apertura dei quotidiani, addirittura il Corriere della Sera e anche il Secolo XIX, è stata riaperta l'indagine per la vicenda Scajola. Ieri si riferivano i giornali che nel sequestro di alcuni documenti sono stati trovati dei documenti a casa di Luciano Zocchi, che era il capo della segreteria di Scajola. Secondo questi documenti Claudio Scajola era stato informato delle minacce al giuslavorista Marco Biagi. Scajola ha sempre detto: nessuno mi ha mai detto del rischio che correva Marco Biagi. Ora la procura di Bologna ha riaperto l'indagine con l'accusa di omicidio per omissione, come titolano tutti i giornali, ma soprattutto c'è una doppia intervista sia sul Corriere sia su Repubblica a Luciano Zocchi, per l'appunto, che all'epoca era il capo della segreteria al Viminale. Fiorenza Sarzanini lo intervista a pagina 10 del Corriere e Carlo Bonini lo intervista a pagina 11 di Repubblica. Dice Luciano Zocchi: ho sempre fotocopiato tutto, ecco il motivo per cui hanno trovato appunti e documenti, e sono felice di aver fatto anche in quell'occasione le fotocopie. Era la mattina del 15 marzo 2002, mi chiamò Enrica Giorgetti, la moglie dell'onorevole Sacconi, che lavorava in Confindustria, mi segnalò la pubblicazione della relazione semestrale dei servizi segreti con le minacce brigatiste e mi disse: non chiedo di dare la scorta a mio marito, ma convinci il ministro a darla a Biagi. E lei informò Scajola? In quel momento lui stava presiedendo il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. Mentre scrivevo la lettera, mi telefonò anche il direttore generale di Confindustria, Stefano Parisi, e mi chiese un appuntamento col ministro, segnalandomi lo stesso problema. A quel punto scrissi i due appunti, li portai alla segretaria di Scajola affinché glieli consegnassero subito. Ma è sicuro di essere stato esplicito? Sono certo, ormai li so a memoria. Nel primo scrissi: l'onorevole Sacconi ti chiede di dare la tutela al professor Marco Biagi, erede di D'Antona e Tarantelli. Nella seconda annotai: Stefano Parisi, essendo all'estero il presidente di Confindustria Antonio D'Amato, ti chiede un appuntamento urgente per lo stesso motivo. Beh, ma come fa lei ad avere la certezza che furono consegnati a Scajola? Chiede Fiorenza Sazzanini. La sua segretaria Fabiana Santini mi disse che glieli aveva dati e lui li aveva letti, ma poi ne ebbe anche conferma diretta. Quella sera Scajola mi chiamò per chiedermi come mai conoscevo Parisi. In quel momento capii che aveva visto tutto. Beh, insomma, secondo la testimonianza di Luciano Zocchi, Claudio Scajola era informato delle minacce nei confronti di Marco Biagi. Le stesse cose Zocchi le dice appunto a Repubblica, così lo informai delle minacce delle BR, e ovviamente potete immaginarvi i titoli che ripartono, come il Fatto Quotidiano con Marco Lillo a pagina 6: Biagi non era a sua insaputa. Questo è il titolo riferito a Scajola, così come Repubblica: Maroni scrisse a Scajola che Biagi era in pericolo. Sono io ad aver scritto una lettera al ministro dell'interno Scajola, chiedevo di estendere la scorta a Marco Biagi anche a Bologna, dove viveva. Così Roberto Maroni, che all'epoca era ministro del welfare, svela che partì dal suo ufficio la richiesta d'aiuto per proteggere il suo consulente, ma non servì. Biagi, nel mirino delle BR che avevano già eliminato Massimo D'Antona, venne ucciso il 19 marzo del 2002. Vabbè, insomma, molto di cui parlare di Scajola. Tra l'altro Giovanni Bianconi fa un'altra pagina dedicata all'ex ministro in carcere. Il titolo è questo: dalle intercettazioni l'ex ministro brindò con i cardinali, sono con me. Si riferisce a un'intercettazione dopo una cena del 17 febbraio scorso in cui Claudio Scajola chiama la moglie Maria Teresa chiedendole attenzione e dice: c'erano a cena con me due cardinali, Cocco Palmerio e Re. C'era Bonicelli, che è proprio un fan scatenato. Abbiamo parlato, a un certo punto ho chiesto a loro: secondo voi cosa dovrei fare? Chiedo un consiglio. E i cardinali: lei si deve candidare, deve rappresentare i cattolici, noi impegniamo la Chiesa anche alle europee. Ecco, per me questi spaccati, questi stralci di un candidato, possibile candidato, che va dai cardinali a chiedere che consiglio e i cardinali si candidi per la Chiesa, raccontano molto più di 8.000 articoli lo stato in cui versa l'Italia. Allora siamo quasi in conclusione. Per la cronaca segnalo una pagina sul Corriere della Sera che mi ha molto incuriosito. Felice Cavallaro parla della Sicilia, dove tra i 16.000 impiegati nessuno è esperto di Facebook, perché evidentemente se l'assessore Nelly Scilabra, assessore alla formazione professionale, ha dovuto fare una ricerca esterna perché sul sito della Regione Sicilia è comparso l'annuncio per la ricerca di una short list finalizzata all'assunzione di 20 esperti in grado di giostrarsi tra Facebook, Twitter, Pinterest con ruoli di developer front and back end. E scrive Cavallara: a quel punto a tutti sarà venuto un gran mal di testa perché nessuno ha risposto, e quindi tra i 16.000 impiegati regionali nessuno si è fatto avanti. E allora ecco il piano per assumere all'esterno, perché 16.000 impiegati non bastano. Questo scrive Felice Cavallaro sul Corriere della Sera. Ma in conclusione, per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi vince Libero, che titola un'intera pagina: giù le mani dal fritto misto. È che già a quest'ora con la sveglia alle 5 un po' di acquolina L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si mobilita contro il cibo considerato malsano, e allora Libero ne fa una campagna: salviamo la libertà di mangiare come ci pare, hamburger con cipolle e peperoni, fritti misti, grassi e unti. Dai, andiamo al giornale radio, va, alle 8:15 avremo il ministro degli esteri Mogherini.